later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli, che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, mentre nella fabbrica di polli la gallina ripete, ripete, ripete il suo verso, Kappa e Drago rivolgono all'amministratore delegato interessanti domande di politica economica. Amministratore, lei che è un'autorità in materia, ci può dire cosa ne pensa della finanziaria? Noi amministratori delegati, soprattutto quelli che lavorano nell'avicolo, della finanziaria non discutono mai. Noi discutiamo di allargamento dei mercati, flusso di contante, tagli del personale, tagli di colli di gallina, perfino di uova alla coq, ma della finanziaria non se ne parla. Perché noi siamo amministratori delegati, quindi ci atteniamo a quello che dice la legge, senza metterci né l'anima, né i soldi ovviamente, che è la cosa più importante. Adesso però io non ho più tempo, devo fare una roba importante. Devo andare a comprare un telo impermeabile da stendere sulla moquette di casa. Che non si sa mai. Ah, un SMS. Carta 5526, la banca. Asterisco asterisco 0507. Autorizzazione POS INP EUR Italia. Vabbè, e cosa vogliono sapere, scusa? Vogliono sapere che fine ho fatto, mi sa. E che fine hai fatto? Vorrei saperlo anch'io. Adesso le banche mandano gli SMS, vero? Da un po' di tempo a questa parte si usa così. Bravo! Hai appena comprato un paio di scarpe. Bravo! Hai appena pagato al casello di Mestre. Hai fatto la coda? Bravo! Hai appena prelevato soldi che non hai. Molto bravo! Hai capito, capo, è bello. È come uno che ti ricorda sempre quello che hai appena fatto. È molto utile nei casi di memoria in pappa come la mia, no? È una specie di tutore che ti tiene in carreggiata. E serve anche per gli alibi. Lo giuro, vostro onore, lo giuro, non ho sfondato la testa del vicino di casa con il mio martinetto. A quell'ora ero al fai da te a comprare un altro martinetto. Vuol vedere l'SMS della banca? Hai appena comprato un martinetto. Bravo! Hai appena sfondato la testa del tuo vicino di casa con il martinetto. Cattivo! Attività omicida coordinata, attività motoria incontrollata, dalla coscienza, ma in sua presenza si manifesta durante il sonno. Ecco il killer sonnambulo, ti uccide senza dirtelo e forse non sapendo. Facevo il negoziante di whisky. Ogni tanto mi succede. E sono anche gli incubi peggiori quelli. Sogno sempre che i distributori mi telefonano per dirmi che non hanno ricevuto il bonifico. Otto, guarda che Rema ha detto che non andava i soldi. Io non ho ricevuto niente. Ma no, come? Ma ho qui davanti l'ordine di bonifico? Niente. C'è anche il timbro della banca, eh? Vabbè, allora senta, mi faccia un fax così non è. No, il fax è rotto. Ma come è rotto? Allora, vabbè, mi dica il numero del CRO così guardo. Il CRO non si legge. Ma non si legge? Eh no, la stampante della banca aveva poco inchiostro e... Ma mi sta dicendo, senti, fino a me non è arrivato niente dalla mia banca, mi segnalano che... Allora, senta, ma la sua banca funziona bene? Come funziona bene? Cosa vuol dire? No, nel senso che non sarà mica che le fregano i soldi dal conto, eh? Cosa sta dicendo? Mi fregano i soldi dal conto? Senta, lei mi sa che... No, aspetti, ma è sicuro? Come sicuro? No, perché io, fossi lei, controllerei, eh? Ma come? No, perché guardi, con le banche non c'è mica da fidarsi. Ma come con le non c'è mica da fidarsi, di quanto non mi devo fidare di lei. Adesso va bene, va bene. Allora facciamo così: se lei domani non vede l'accredito, mi chiama. Che poi risolviamo tutto, no? Va bene, va bene, dai. Ma sta mettendo nel colù, però. Allora grazie, A domani. A domani. Ma io il bonifico non l'ho mica ancora fatto, Ok, ho fatto, Quanto lo danno? Lo danno 1 a 25. Se puntiamo tutto e riusciamo a salvarlo, vinciamo una fortuna, Carlo. Me lo dici così. E come te lo devo dire? Con un po' di entusiasmo, Drago. Dai, noi puntiamo tutto e vinciamo una fortuna. Sì, in piume. In piume? Sì, qui pagano in piume. Prendilo o lasciarlo. E allora? Allora chi se ne frega di Joao, no? Ma dai, ma come? Ma la campagna Save Joao? Beh, quello. Dai, non possiamo mica lasciarla perdere così. Attenzione, la campagna Save Joao non va in televisione, non ha testimonial illustri e soprattutto non ha niente a che vedere con Gino Strada. Forse è proprio per quello che non la caga nessuno. Joao è un pulcino di appena 14 giorni. Ciao, sono Joao. Praticamente un terzo della sua vita se n'è già andato, perché tra 24 giorni Joao morirà decapitato. Ma dici sul serio? Sì, Joao. Tra 24 giorni sarai ucciso e tra 25 giorni sarai nella vetrinetta frigo di un supermercato. Ma io ho fame. Dobbiamo fare qualcosa per Joao. Ho tanta fame. Non resta molto tempo e tutto dipende da noi, da te, da voi, da loro. E allora mobilitiamoci. Mobilitati. Mobilitatevi. Si mobilitassero. Semo, semo, Roma, Roma. Quando nessuno mi vede posso finalmente parlare senza stupido accento italiano che mi sforzo di avere, ach du Teufel. Ma perché, mi chiedo io, perché da quando hanno fatto un nuovo papa questo accento non si può più avere, se no di dopo di Vaticano ti fanno scomunica con grande sputtanamento, perché? Che poi io non ho nella maniera più assoluta accento di Passau in Germania, che è accento di Papa, quanto piuttosto accento di Ruhr, che si trova in Svizzera orientale. Almeno una volta, quando si sentiva questo accento, tutti pensavano al Führer. Adesso pensano a due persone, il Führer e il Papa. Si può parlare come Führer, ma non si può parlare come Papa. Allora è complicato di spiegare a cattolici italiani se stai parlando come Führer o come Papa. Cattolici italiani non hanno orecchio per distinguere Führer da Papa. Ci vuole orecchio. Come diceva vecchio cantante rincoglionito italiano molto bravo, anche se non bravo come Cristina di Crisma, è di Svizzera, figlia di Dado Knorr, che è svizzero, è anche molto buono. Quasi quasi ora mi faccio un brodino. You won't believe it. It was incredible, man. Incredible brother machine. Siccome io mettevo nel conto dell'azienda anche le ricevute dell'estetista, allora adesso per risparmiare, perché poi in fondo, parliamoci chiaro, se l'azienda risparmia, anch'io posso darmi un aumento di stipendio. Allora, sapete cosa ho deciso di fare? Le unghie me le faccio da me! Bravo! Hai appena ascoltato una puntata della Fabbrica di Polli. Che cosa succederà adesso? Quali altre manovre finanziarie ha in mente l'amministratore delegato per far quadrare il bilancio della fabbrica? Non potete far altro che sintonizzarvi domani alla stessa ora su Radio 3 per il prossimo keynesiano allestimento de... La fabbrica di polli produce, non chiude, Fabbrica di Polli, un programma di Cappa e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen. La Fabbrica di Polli è trai.it, barlumen.com.